noi possiamo solo continuare a denunciare per aggiotaggio e per truffa questi speculatori, sperando che qualcuno dei 104 procuratori della Repubblica Italiana, e alcune inchieste sono state avviate grazie alla nostra denuncia, quindi abbiamo delle inchieste in corso, aspettiamo di vedere dove? L'esito che avranno in alcune città italiane. Non glielo dico perché se no immediatamente vanno a rompere le scatole, come fanno sempre con le loro attività di lobbying, vanno a rompere le scatole anche ai giudici dicendo che insomma eccetera eccetera. Quindi noi, ma comunque adesso... lei mi dà per certo che avete avviato alcune che ci sono alcune procure che stanno indagando? Sicuramente, come no. Ma con quale profilo di reato, mi scusi? Profilo di reato è l'aggiotaggio. Aggiotaggio significa quando una categoria di produttori si accorda per mettere in essere dei comportamenti o degli atti che tendono a tenere alto il prezzo di un bene a diffusione generale come la benzina, scatta il reato di aggiotaggio. È un reato difficile naturalmente, perché non a caso il codice è del 1930 e non a caso nessuno mai ha avuto interesse a creare un reato che funzioni a favore dei consumatori nel nostro mondo moderno e contemporaneo. Tantomeno poi con l'ultimo governo, tantomeno con questo che ci aspettavamo che qualcosa facesse, invece pure questo si è rivelato identico agli altri, cioè praticamente se ne frega dei consumatori e fa soltanto il bene dei produttori e dei petrolieri, cioè li perdona sempre per le loro speculazioni selvagge.